Beh, perché ho sentito tanta gente promettendo poi si comportava diversamente. Io avrei dovuto trovare a manca di solo, fare promessi ma nel fatto. Ma so che ancora si tenta. Già, una persona con la L sta lavorando. Cosa? Una persona con la L, capisci a me, sta lavorando. Con la L. Con la N o con la L? Dì tu con la N. Ah, e cosa offendi a cure di ferro? Non lo so, precisamente. Comunque sta lavorando, dai. È meglio per lui. Comune? E io? Lo sapevo che l'avevano chiamato, però avevano bloccato per questa storia e dovevano farli approfittare tutte queste cose qua delle visite. Guido, sto lavorando. C'è tu anche? Sì, c'è dove un mappo lo so anche. Beh, vabbè, meglio per lui, ci vuole un po' di ossigeno in tutte le famiglie. Magari a notte. Vai all'ufficio di collocamento? Vedi la domanda, eh? Quella che ti fai tu, una domanda, forse perché mi fa ridere. Se la c'è il clown, capito? È che adesso non prendono più in comune fisso, che prima era diverso. Prima chi va via a 3.000 entrava in comune tranquillamente. Come c'è o Leoncini? Cosa? Ho sentito qualcosa. Ma ha già compreso bene. Cosa? Non lo so. Ma comunque ha già inteso cosa c'è di strano, no? Non ha già compreso che cosa ci deve essere di strano. Vedi, devi attento. Non hai capito la storia. No, scusa. Oh, pensavo che... Se io con quella persona lì non la voglio dire, però non la voglio dire, basta. No, vabbè, ho capito male. No, ha detto che ha incontrato a Luca e gli ha detto cosa stava facendo. Lui gli ha detto quello che stai facendo tu all'ufficio di collocamento. E Luca si è messo a ridere, così ha detto. Ma guarda, ti dico cosa ti stai facendo. Anche quello che stai facendo tu. Io sto facendo una domanda. È Luca. Sì, ti dai già messo a ridere. Vabbè. perché... Nel senso, forse voleva riso, come dire, che se si è buttati nella matta si basta. Siamo tutti quanti nella matta si... Diciamo, merda, no, non fa, fa merda. Mi scappa. No, ho capito diversamente io, hai capito? O Leoncini. Avevo capito diversamente, pensavo che lo volessi sapere. No. Manco per il male me ne passa meglio. Vedi, a me lo sai. Ciao, però tira avanti. Gappa, che avevo capito male questo qua. No, mi ha dato fastidio. Ah, quella risata non si dà, è un figlio. Non è che mi piace passare, ma è un figlio. Gappa. Oh, lui mi ha detto, ma di nulla. Anche a me. Si dà. Ehi, vabbè, pensate che troviamo a voi. Non c'è nessun problema, Giuseppe. Tante volte, quando troviamo lo acquisti anche in salute. Niente che si ammala, ma fa il lavaggio, però già. Giuseppe, lui sta rispondendo al telefono. Avanti, attenzione. Ehi, ho detto, Giuseppe invece sta rispondendo al telefono. Ah, capa, mia, stavo dicendo cosa qua. E comunque, quella questione là è così, da. E io vabbè, ma ci vuole. Tu devi andare a guardarmi gli occhi, scusa un attimo, mi stanno bruciando. Poi capa. Tanto, non li senti buoni, da quella parte lì. Non prego. Adesso. Se non mi senti tu lì, cazzo tanto frena a passo. Ma me la capisco. Ci vedono i lampi lì, nella zona di giù. di Platamona. Tutto sta aperto qua, non vedo niente. Volete, ma è tipo? Non lo so. Ma tutti che domani dopo ti hanno invitato. Ma Giuseppe, sarei tu uno che hai fatto lo drone? No, negativo. No, meno. Sto assaggiando 10 minuti. Sei nostro, sei nostro, lei già. Non lavare la maniera che facevo dopo. Grazie, po'. Sì, avanti anche. Che stavi dicendo, Anto, non ti ho capito. Oh, tu vedi alle lampe. Io c'è tutto chiuso, non vedo nulla, tutto abbassato. Se avessi avuto un po' di coglio me l'avrei messo, invece non è. Poi me li sto sempre sfregando. Che sono rossi, mi bruciano. Come cavolo fate a dormire così? Come? Per una molecola curva come è abbassato. Per me io aprirei tutto. Mia moglie che deve che sono gli insetti, anche l'estate, lui, ormai. Insetti, pipistrelli. Vabbè, l'inverno. Però la serranda la vuole. E la baciamo tutte le notti e poi la mattina si riapre tutta. Oh, come due apri tutti? Mi piace la luce, mi la sveglia. Tu a me mi chiede compagnia, me la vedrò me la luce. E dopo che lo si fa quanto ti drommi sempre, buoni buoniti in terra a drommi, drommero mattesi. No, ma non, proprio quelle cose lì non mi danno nessuno. A me mi dà fastidio quando la vedo abbassata, allora mi incavolo anche. Mi soffri di claustrofobia del resto. No, non per quello no, assolutamente. No, non mi piace la finestra abbassata. Beh, d'estate invece tutto spalancato, fresco, cosa. E non c'è il verso. Io allora non so cosa faccio, d'estate piglio e me ne vado nel mio, nella mia cuccia. Allora io un po' d'estate tengo aperto, ah, magari un pochettino di meno però aperto, sì. Appaga, no, a me mi piace proprio spalancare tutto, io metto vicino alla finestra, mi sono entrato con la finestra tutta zamarda, io vado fuori nel salone e apro tutto quanto. Mi curi i croci a filare il bacone. Mi ha fatto esatto, sì. E la mano fatta, la vado a caccareggi, che ti verrà in 5 gradi, casino. No, qua siamo, non siamo a 5 gradi, qua siamo, non siamo, quando abbiamo preso la macchina siamo 2 gradi. Sì. No, io quando sono arrivato a casa alle 8 meno 10 c'erano 5 gradi e mezzo esattamente. Però poi non lo so se è diminuito. Per forza c'è 5 gradi, stavo viaggiando in macchina. Il caldo del motore è alto un po'. Quindi succede, pure noi quando abbiamo messo in moto dopo si è scaldato un po' e la sensazione con la temperatura. Però i 20 gradi erano 2 gradi era. Diciamo che quando ci sono 2 gradi a me mi segna anche la neve disegnata. Ma il passo che abbassi domani mattina. Il canaletto che deve verificare. Stavo dicendo. Sì, vabbè. Supposizioni sono. Cazzo, è un'aria fredda. Comunque ho visto anche la nuova, devo ancora passare la temperatura. Che forse quanto è giusto il giornale? Mi è venuto una a portarci le salsicce dal Cusuide e mi ha detto che c'erano 2 gradi quando è partito, ed era presto, erano le 4 e mezza così. Ma nel suo paese? Cappa. Giusia. Cusuide, non lo sai dove, dopo prima che può trovare il giovane. Dopo buono lo farà. Che si serve l'ora, ma la volta la farà da zero. Eh beh, sicuramente sì. Perché detto che c'erano 2 gradi quando sono partiti. Ma nel palazzo, nel cuore. E invece si vuole, ma è come si besta. È buia. Ma lo sei freddo, va bene, mangiare la salsiccia. Formaggio, alla grande. Ah, c'è anche l'uncia, avanti l'uncia. Ok. Ah, quando ha parlato alla palazzo, al palazzo, ha detto, come era, non ha detto, forse non male. Ha detto che era a letto, che praticamente... L'hanno ricoverato l'ospedale, non sa. Vero. Ma adesso la compagna. Dice no, non c'è. Cosa ha avuto? La storia dell'influenza, dice che si dice questa febbre. Non troppo tradito. D'accordo. Che vuole entrare? Ma che vuole entrare? Ma tu passi. Mi è sembrato tranquillo, me l'ha detto che c'era la febbre, però mi è sembrato tranquillo, infatti mentre ero a letto mi sono alzato apposta, mi ha detto scusami se ti ho disturbato, dice no tu non mi disturbi, non c'è problema. Io ho fatto così a luna, perché mi sapevo qualcosa, per un po' di un'era no, ma se no no, la legge è all'ospedale. Probabilmente per accertamenti. Ma ti ha detto buffurendi, non lo so. Ma ha detto che era ricoverato, lei mi ha detto che era ricoverato, tu non so se è vero. Allora, anche Marcolino, mio figlio, l'ha avuta così, 40, e non li voleva calare, manco con la tachipirina, gli ho fatto l'impatto di ghiaccio per farli lasciare. Non sai, quando è un bambino viene abituato che è la mano comincia a avere tanti nostri, anch'io ero ricoverato dalla ema da parecchio, cazzo a febbre, saliva quasi 41, cazzo allora, mi hanno ricoverato, cazzo ero morto, ero un calambere. Lo sai cosa succede? Quando la febbre sale troppo, ti può venire... come si chiama, che si può infiammare il cervello e come cavolo si chiama, non mi viene il nome, meningite, capito, ti può venire la meningite, c'è un bambino vicino a casa, gli è venuta la febbre al 41, gli è venuta la meningite, è rimasto scemo, è rimasto meno matto. Sto dicendo che adesso qui. Sto dicendo che ricoverano proprio per prevenire quello. La panata per il fuoco dell'aereo. Poi telefono, faccio anche delle tonsille, capito? Ma quella sua è la febbre, non è la questione di tonsille. Corporale, per lui, ma è capito, al freddo, preso a caldo e la tonsille. No, c'è il virus in giro, ma non è questo il colpo d'aria. La questione è che c'è l'influenza in giro e via. E bizzicheggia che la bizzicheggia. Tu devi vedere cosa c'era la pediatra ieri quando abbiamo portato il bambino. C'era un mare di gente. Pediatra tanto. Marisa... non me lo ricordo. Angius. Questo magari di lavoro. No, è molto brava questa che abbiamo avuto. E comunque non le ha trovato manco le tonsille arrossate, le ha detto proprio un'influenza low. Gloria, la signora, la sua influenza, proprio. Qua io dico la verità, io non mi faccio mai né vaccino né nulla, non mi piglia mai. Io il vaccino l'ho fatto ogni anno, ma come faccio il vaccino non mi viene più niente. Ma è brillante l'influenza. sempre dal raffreddore, così la cosa, però proprio la febbre è difficile, perlomeno sino adesso è stato così. Che già che è pure un del minore, neanche quando eri piccolo. Neanche quando eri piccolo. Però piccolo sì. Chiappa. Ma dico la verità anch'io. Non è che ne prenda tante. È molto difficile, capito? Ci sono, quando ero piccolo, perché ho preso il morbillo, allora sì che mi venivano con quelle malattie strane, morbillo, la varicella, queste cose qua. Anche io ho passata. Devo dire, non è, io, non è, è raro che mi venga, ma se mi viene mi passa in pochi giorni. Beh, io sì, qualche rinetta sì, ma non proprio al caldo, è difficile. Chiaro, da poco c'ho avuto il raffreddore, un pochettino di febbre, ma e basta, mi danno i buttati, certo. Così, ma ti stavo dicendo, è basta, no, non è che abbiamo avuto grosse cose. Ma è a casa. Già. Meno male. Qua. Io sei uscito. No, è stato l'altro giorno. Infatti mi ha distratto, stavo rispondendo a lei. Ti giuro. Ma tu febbre ne prendi? Io tanto, sai, mi sono fatto la vita, però, ma non più del tanto, capito? 37, 37 è meglio, ma no, non proprio buttarmi a terra, capito? Neanche io, ma proprio poco. Anzi, con questa temperatura è ancora di meno nel figlio io. Quando fa umido io prendo i malanni, quando piove, ma con le temperature così fredde no, non fa niente. Si frega quando sta facendo un lavoro, no? Si è sudato, e poi si esce, così si sta coprirsi, è quello che si frega, capito? Lo so perfettamente. Non so come lavoro io. Perché c'è un po' di freddo, c'è la magliettina sotto e la felpa, poi c'è il giubbottino, ma quello senza mai, come si dice, senza le mani, basta, non riesco a dirlo. Le mani che anche... Bravo, mi hai detto la parola di posto. Con quello lì. E perché poi io mi riscaldo molto la mattina. Mi prego, faccio un attimo a letto, tanto che mi verrà questa aria ghiacciata. E non te lo fuori qualcosa, no? No, io sempre così, sempre così. La maglietta sotto, la felpa sotto. Mia madre è vecchia, io la mattina. O mi metto il golfo. Sì, oppure una bella tuta felpata. Quello che come arrivi in deposito ti riscaldi subito. Riscaldo che è caldo, c'è caldo dentro il deposito, caldo qui, di caricare le pompe, tutto quando è, si è accaldato, capito? Per mezzo, 8 minuti, allora è punta, certo. Se vedi che cazzo. Ah, sono per la rete, le gambe oppure altra cosa. Chiappa, stamattina c'era un freddo in vice deposito, mamma mia. Ah, commentario cominciato a carregare. Mi è salito proprio il calore, dai piedi a tutto il corpo. E poi caricate a me. Una mano in più ci vuole, quindi devo caricare la moto, Quando sono molte morte siamo le parti furiose scaricando. Non penso quale come sta. Non sta bene. Sì, no, no, non è lì, no. No, sta nell'altro stanza, sta facendo cosa. Adesso vogliamo andare un piccolo appello. Ecco, infatti, a sai cosa deve fare con quella portante? Il testimone lo dice in scuro e poi appena appena te lo piaghi, non fai nulla, cosa ti credi di fare? Vabbè, là, facciamo perdere. Chi è tu? C'è uno che sta provando, ma no, mamma lo lascia perdere. Tutto quanto? Sì. Tanti già. Io vi lascio a tutti che mi sta venendo la biocco. Vi saluto, cordialmente rimango in ascolto, si raccomando, se la faccio poi saluto tutto. Buonanotte a tutti, quello ti permette. Vabbè, buonanotte già, dai, ce la risentiamo. Avanti, veloci. Ok, buonanotte, buon tutto, la macchina è trovata. Grazie. E neanche la trasmetta, stiamo congelando il piede, grazie a voi. E io me ne vado a questo, sotto questo. Anche se ci vediamo per cercare, non ci sono problemi. E altro problema, quando vuoi? Quando vuoi tu? Non ti ho mai visto tu? Fai un pochettino più sopra e trovi a me. In quella zona che tu sai. Ho capito, ho capito. Dove c'è la figa, no? Sì, non c'è da sbagliare, è già usata. Non c'è da sbagliare. Quando vuoi. Non c'è problema, là. Non c'è problema, non problema. E via. Vabbè, dai, ci sentiamo, dai, anche io sto per chiudere, ci sentiamo alle prime, dai, ciao, ciao. Facciamo l'uccidere. Capito, quando vuoi non c'è problema, se non c'è molto da fare già una chiacchieratina adesso può fare. Ciao, ciao, buonanotte, Luci. Ciao, ciao, ciao, buon saluto a mio tuo padre, quando lo senti, dici che gli accediamo per spiegare. Cappa, cappa, non c'è problema.